po' di altezza c'era per arrivare un po' da, dappertutto, ma non è questo granché, comunque, dai, non è, ma boh, dai, sorvoliamo, non attende, attende, va, è inutile, se vuoi andare, di non averlo circondare, muri perfetti, e vai alla grande, se no non si va nel suo posto. Oddio, ma tu se va, nonostante sia una terra di vettura, va più che bene. Sì, quello sì, lui c'è un'altra vettura che si è stata in casa, non è che si abbia, c'è un'altra vettura, ci sono cazzate adesso. Mi ha fatto tutto lo verticale, messo con quella fase che c'ha, come si chiama quella fase della fede al campiccio, con le stecche lì, flessibili, fatta così, Che ha pagato. Ah, già va bene, dai, già va bene, hai voglia. No, ma il discorso è quello, se lui vuole uscire, Giuseppe Leoncino vuole uscire a bere, per me si deve comprare una buona antenna, per me. Una buona antenna perché la postazione sua è buona, è libero, è aperto dappertutto, capito? Se lui si mette una buona antenna, Giuseppe esce dappertutto, un buon segnale, una buona ricezione, trasmissione, compagnia bene. Ah, quello sì, è vero. Ma vediamo cosa vuol fare, perché mi si è fatto i soldi in modo da comprare la prima bella, almeno è tranquillo. Allora lui si mette dei soldi da parte, se ce la fa e comprarsi una buona antenna, capito? Perché lui, diciamo, come ha parlato, va bene, si è bene, si sente bene, solo che basta perché non ha un'antenna come si deve, capito? Mettendo la buona antenna lui esce alto dappertutto, capito? Tutto lì. Non c'è il vero, vabbè, adesso vediamo un po' cosa si può fare, la verità, perché è brutto. Così come adesso non è che ci abbia avuto guadagno, la verità, si ricca. Adesso sta arrivando, ma c'erano delle settimane scorse, io ho sentito, c'era anche parlato, via dicendo, lui era il suo cutia, che stava facendo bene, e Santiago era quasi 5, la radio abbastanza comprensibile, adesso proprio, boh, Santiago 1, 2, ma arriva a 2 massimo, ma proprio la radio bassissima, capito? E dipende, secondo me, tutto dall'antenna, vai Antonio, noi non te ne stiamo lì a girare la minestra. È tutta questione dell'antenna, se tu hai un'antenna buona esci bene, se no è un casino, capito? Lo so, purtroppo non ci possiamo fare niente. Va bene, mi passo in quello qui, adesso mi guardo un po' di televisione, c'è il dottor Cactus, se non mi sbaglio, a quest'ora. 9:10, 9:00 e poi vedete 6:17 già entro, se no a domani sera o domani mattina andrò. Va bene, non pure, tante cose belle, buono 144, ma non lo fai, se vuoi tra dopo, se ci siamo, fa molto piacere. Se no, tutte le migliori alle plus. Saluto da te e QRA familiare. Ciao, perché tu stai salutando. A chi sto? E a ciò che mi hai fatto arrivare più forte, Giuseppe, Vittore. Avanti, ok. Ehi, vai Giuseppe, vai avanti, facci sentire. Come adesso com'è? Adesso è uscito dall'oltre tomba, cavolo. Aiuto, Giuseppe, tu la regolate. Ah, sono in macchina, vino. No, non è che sono a casa, sono in macchina. Porca miseria, esci meglio dalla macchina che da casa, ragazzi. Noi lo pigliamo questa antenna, per questa antenna e questo palo telescopico e lo facciamo, dai. Ma mi sono rotto le palle di antenne, devo mettermi un'antenna normale, come gli altri, come tutti quanti. E dunque, vedrai che una volta che abbiamo fatto la roba, uscirò anch'io forte. Va bene, d'accordo. Va bene, dai, io vado in QRT lo stesso, dai, mi guardo un po' in TV. Vediamo un po' che sforzata da noi. Giuseppe, ti saluto e tutte le migliori nel prossimo video, dai. Fai qualcosa, Giuseppe, che sicuro che tu se cambi antenna vai alla grande, vai. Saluto i belli e tutte le cose, dai, alle prossime Falchetto QRT definitivo. Ciao ciao ciao ciao ciao. Ciao Falchetto, buon 144, un buon trabacco per domani. Antonè, ci sentiamo in settimana e vediamo un po' di fare tutto questo, tutto quanto questa questione, dai, ok. Oh. Grazie a Dio, quindi adesso i carabinieri sono veramente bene. alla faccia del bosone, ha capito, e tu vuoi mandare per dire un carabinieri a Gaeta, che è la stessa cosa. Quando dovevo fare qualcosa, prima mi lasciavano, lo mandavo in Sardegna, secondo me stava male, invece stava meglio di lui. Sì, positivo. No, io sono stato, diciamo, ho fatto 40 giorni quando hanno sequestrato a Fabrizio De André, nell'80, sono poi andato. Sono fatto 40 giorni lì a Grosgenoro, praticamente Oliena. No, una bella cittadina, diciamo, è stata una bellissima esperienza, Antonio. Sta bene comunque, sta bene, ora ci sono, penso sia quelli che l'abbiamo, sono già più come prima, anzi i carabinieri di Sardegna che sono veramente bene, perché stanno veramente bene in Sardegna, sono pochi, per dire adesso non è più come prima, come una volta, e ci vogliono 500 carabinieri, battono 5-6, massimo 10 in una caserma, non ci sono cose che capitano fuori, capito? Noi ci conosciamo tutti, quindi chi sgrava, paga, nessuno sa niente. Sì, positivo è così, perché una volta le mandavano lì in Sardegna per punizione, adesso ci vanno per la punizione perché sta troppo bene, molto molto bene. No, ma io ripeto, ho trovato abbastanza accogliente quella cittadina, Oliena, là, che poi da Nuoro mi sembra che era un 15-20 km, non di più, ok? E poi praticamente ognuno siamo rientrati in nostre parti, però diciamo così, è stata una bellissima esperienza, dai. Sperando che non ti sia sposato nella sabba, di solito quando vengono da fuori si sono tutti come sappi, chissà perché, boh. Perché sono quella ragazza, no, ho sposato una ragazza qua del mio paese. Ho sposato una del mio paese qua. Anche che prima ero lì, ero fidanzato con una ragazza della provincia di Modena. E immagino molto è un pochettino. Poi praticamente siamo lasciati e mi sono fidanzato qua giù. A chi è le pebrancelle. No, ma anche lì c'erano delle bellissime ragazze in Sardegna. E io ne conobbe parecchie, per cui diciamo così. No, diciamo così, Antonio, sarebbe stato bello, non lo metto in dubbio perché ci sono delle belle ragazze veramente, dai. Cioè come in Sardegna, come in Calabria, in Sicilia, dappertutto, dai. Diciamo che la Sardegna è più benvenuta della Sicilia, la verità si dica. Anche la Calabria è bella, non è brutta la verità. Però, diciamo, la famiglia più bevuta, più di altro, si era fatto una specie di cosa adesso, di Zona Franca, l'Inco Forno Larga, e gli altri zone, comunque ci sono molto zone che sono belle, veramente belle, che non si conoscono, capito? A meno che tu fuggi, l'hai fatto, sei un caldo, perché sei partito da venire, si può fare quante zone che hai visto, belle, molto molto meglio della Costa Smeralda, che ti lavorano molto di più addirittura, tipo Stentino, la zona del Cilanuro, c'è un bel mare, c'è cose così, la conoscenza delle zone, il discorso è quello, e poi anche le persone, perché se tu entri in un paese, vai tranquillo che non sei senza niente, ti rispettano, e tu sai perché. Ma non che non hai fatto qualcosa di male, se hai fatto qualcosa di male sono segnato con Sardegna, sono fatti così. Però un ospite è ospite, non c'è niente da fare, ti posso bloccare, ti posso guidare la macchina, però tu sei un ospite e ti trattano bene. Il discorso è quello. Per lo meno lui della parte di uno. Ecco. Sì, è positivo, è così, dai. È così. No, io purtroppo eravamo andati, te l'ho detto, per il sequestro di Fabrizio De André lì, per cui diciamo così abbiamo fatto una bella esperienza da una parte e dall'altra, dai, ok? Ma tu diciamo che cosa ti occupa nella vita? Ho sentito che mi sembra che ce ne siano dei bambini là, Antonio. Negativo, però avevo un film di quella domina, c'è anche un video, no, io bambino mio, comunque sono tecnico io. Faccio riparazioni di barattini, di stereo e roba satellitare, capito? Ah, non sei sposato? No, io non ho ancora sposato, ma sono convivo 12 anni e sta bene. Ma sposarci ce l'ho il tempo ormai. Quanti figli ci sono? O io? Vabbè, ognuno fa la sua scelta, dai. Ognuno fa la sua scelta. Non è che magari deve essere obbligatorio una sposarsi come quando perché, assolutamente, ci mancherebbe. Ognuno di noi quando nasce un destino, ognuno di noi fa la sua decisione, ognuno di noi fa le sue scelte, non ci sono problemi, dai. Meglio così, meglio, sono contento. Sto usando l'antenna che mi sono più o meno costruito io, dai, ciao. Sto usando una basolotta di Grand Prix. Di cui ha fatto la diale per dire. Allora, ha fatto lo stile della batteria, ci ha messo lo stile della tubo 2001 senza la basetta. E ha posto la diale, ci ho dato la diale, anzi non sono 4 ma sono 3, di stile di macchina di quel modello vecchio, ce ne sono 20. L'ho agganciato ed è perfetta, ogni euro è stazionale, va bene, anche la banda 3, ma però va bene, sembra che non funziona. Sì, positivo, positivo. E io pure sono in base fissa qua, praticamente, diciamo così, c'ho, come apparato c'ho un Colt, c'ho un Colt, poi c'ho un Amante a 5 e poi come sputafuoco c'ho un modello ZG 2000, 2002 qua sotto, ok, andò. Diciamo per me, farmi un pochettino sentire, ok? Per farmi un pochettino sentire. Quale BV2002 c'è? L'MK3 o BV2002 è l'altro, quello pastorizzato? Il lineare? Esatto, beh, secondo te cosa fanno? Se in auto c'è BV, due sono le cose, uno o è pastorizzato con le sue posizioni, oppure uno ha le sue posizioni e a valvole. No, no, c'è quello a transistor, un modello bravo praticamente dello ZC 2006, ok? E quello nero, questo fabbricato in casa che praticamente pesa un accidente. Ah, ho capito, io ci sto usando il sottotitolo, però ti muto con microfono salerta, il Bravo Plus per esattezza, 50 watt con il tubo di uscita sto usando. Lo so. No, comunque arriva abbastanza positivo qua, dai. Io quando arrivo lì? 20, tondo tondo. Come? 9+20, tondo tondo. Ah, che appare oggi è positivo, Positivo al 100, ok. Sembra che siamo qua dietro, dietro l'angolo. È positivo, dai, andò, è stato un piacere ascoltarti, ci vediamo alla prossima, di solito sono sempre su questo canale che ci sono c'è mio nipote che fa il tabacco camionaro e mancabilmente tutte le sere sono qua, qui. Mi ha fatto piacere ascoltarti, mi vado a fare una doccia perché fino a poco fa, diciamo così, sono stato nell'orto a zappettare, a fare qualcosina nell'orto, per cui domani mattina lo sveglio molto presto. Ok, saluto l'ispettore Guarini Antonio, è stato un piacere e ci ascoltiamo alle prossime, ok Antonio? Ok, altrettanto per te, guarda, ci sentiamo alle prossime, fammi bene, buon lavoro, buon tutto, buon lavoro per domani, al limite, non c'è problema. Alle prossime, se ci sentiamo. Senz'altro, ciao, buonanotte.